trasmette da Torino. Volvi stasera, ti attendo al Valentino. Ma se ad un tratto si cambia di programma, questo vuol dire attento c'è la mamma. Radio Bologna vuol dire il tuo si sogna. Radio Milano ti sento da lontano. Radio Sanremo stasera forse ti vedremo. Mi sento morire. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.